ok? Perché i Weathermen, portando la guerra in città, portando la guerra a casa, necessariamente rivelando una politica di rottura totale rispetto all'establishment, rispetto alla politica del governo statunitense, si sono posti in una situazione per la quale la clandestinità era l'unica forma possibile di sopravvivenza e di azione. E come vedremo, la clandestinità, se non ha un'organizzazione di facciata che spieghi le azioni di questi combattenti clandestini, di questi guerriglieri, non ha molto senso, perché se non c'è un lavoro radicato nel territorio, anche le azioni politiche, le azioni più forti di qualsiasi natura, armate, non avranno lo stesso peso del lavoro che dicevamo prima nel territorio. Se le due cose vengono portate avanti contemporaneamente, come vedremo nel film e come vedremo soprattutto se vi capiterà di leggere la postfazione al libro che appunto volevamo presentare questa sera, che si chiama Prateria in fiamme, una postfazione che ho scritto nel momento in cui in Conchetta ci è stato proposto di presentare questo film, The Weather Underground. Allora, adesso ritorno nel discorso che mi ero preparato e quant'altro. E l'anno scorso ci è stato proposto di proiettare questo film e l'abbiamo visto, e quando l'abbiamo visto ci siamo posti un poco di problemi. Allora, questo film è stato realizzato nel 2003 e racconta l'esperienza di un gruppo che non è molto conosciuto, ma è un gruppo appunto che nacque all'incirca nel 69 a causa di una serie di una forte crisi che c'era in questo movimento che vi dicevo precedentemente, in questa organizzazione, gli Student for a Democratic Society, perché molti studenti bianchi, per lo più di formazione o di comunque di background borghese, che frequentavano delle università anche prestigiose negli Stati Uniti, si resero conto che tutta la retorica rivoluzionaria delle organizzazioni bianche rimaneva nella retorica, nelle parole, non aveva un risvolto concreto nella quotidianità, e soprattutto aveva una distanza totale rispetto al territorio di cui parlavamo prima, una distanza che invece vedevano colmata da organizzazioni come le Pantere o organizzazioni portoricane o di latini come i Young Lords o i Brown Birds, che partendo dalla piattaforma politica in 10 punti delle Pantere avevano stabilito con le Pantere una serie di relazioni e di interscambio, per cui c'erano attività congiunte in varie città, da New York a Chicago alla California. E questi studenti decisero, questo gruppo di studenti, che tra gli altri, tra i pensatori più in vista anche degli Student for a Democratic Society, decisero di indire nel 69 per la convenzione democratica, per la riunione, per le primarie democratiche appunto che si teneva a Chicago in quell'anno, decisero di fare la prima azione armata da parte di bianchi. E nel 69 indirono questi giorni della rabbia. In realtà pensavano che si sarebbero ritrovati migliaia di studenti bianchi, si ritrovarono in 200 persone, 200 persone che si cagavano letteralmente in mano, ma nonostante questo decidero di andare avanti a fare quello che avrebbero dovuto fare in 2000, e in effetti ricordiamo a distanza di 30 anni quei giorni, e fecero un delirio, fecero veramente il delirio. Da lì, qualche mese dopo, entrarono in clandestinità, e per circa 7 anni rimasero in clandestinità e portarono qualcosa come 22 attacchi ai principali obiettivi politici, economici e militari del governo statunitense. E questi 22 attacchi furono brillanti, perché non fecero alcuna vittima civile e non ci fu alcun arresto. Per cui voi direte, è un'organizzazione che aveva una struttura tale e delle competenze tali da portare degli attacchi mirati ai centri del potere senza subire alcuna perdita. E questo è assolutamente vero, però come dicevo precedentemente, la mancanza di un contatto con la gente, con le persone, nel quotidiano, portò i Weathermen ad essere sempre più lontani dalla realtà di un movimento, e di un movimento che stava cambiando, perché tra fine anni 60 e inizio anni 70 il governo statunitense, grazie alla scientificità, alla metodicità delle operazioni COINTERPRO, che è un acronimo per Counter Intelligence Program, programmi di controspionaggio, era riuscita a distruggere completamente lo spettro delle organizzazioni rivoluzionarie negli Stati Uniti. Per cui in un momento di fondamentalmente di reazione e in un momento di recessione economica, questi guerriglieri clandestini, che in un primo periodo si erano alimentati e alimentavano un forte movimento all'esterno, piano piano non trovarono più l'appoggio che desideravano all'esterno e si trovarono completamente isolati. E come vedremo dal film, ci fu una grave crisi interna, un grosso dibattito, e l'organizzazione si disgregò. Ora, vi stavo dicendo, quando abbiamo visto questo film per la prima volta, perlomeno personalmente ho avuto un sussulto, perché questo film finisce dicendo appunto che la distanza dal movimento, o da un movimento che non esisteva più, rendeva queste azioni prive di senso, e alcuni esponenti e leader più in vista di questa organizzazione alla fine decisero che la lotta rivoluzionaria era terminata e si consegnarono nelle mani della giustizia. E questo film poi finisce rilevando che la maggior parte di questi attivisti, quelli che si consegnarono, quelli che vennero in un certo qual modo presi in custodia, non passarono tanti anni in galera per ragioni varie, che poi magari di cui potremo discutere dopo aver visto il film. E poi, guardando i personaggi che hanno contribuito a questo documentario, si intravede una persona di nome David Gilbert che ha 75 anni di galera. Allora la riflessione è: se figa, questo subirono solo lievi pene, se 75 anni di galera è una lieve pena, allora mi chiedo cosa possa essere il carcere duro o una... E la prima riflessione è stata lì, perché non si capisce perché questa persona abbia 75 anni di galera. Allora, questo film ci ha fatto riflettere particolarmente. Abbiamo deciso di ripubblicare quel libro, Prateria in fiamme, che è stato pubblicato nel 77 da un collettivo Libri Rossi, con un'edizione con una introduzione di Paolo Bartella Farnetti. Questo libro è stato pubblicato negli Stati Uniti nel 74, mentre i Weatherman erano in clandestinità. E abbiamo deciso di ripubblicarlo, ma di aggiungere una postfazione. Questo perché? Perché l'introduzione ottima di Paolo Bartella Farnetti necessariamente ha dei limiti temporali. Nel 77 lo pubblicarono in Italia, non c'è tutto quello che avvenne successivamente. Questo film ha dei limiti di carattere diverso, che non voglio giudicare, però vi voglio dare almeno un paio di informazioni per comprendere meglio ciò che vedrete. In realtà non tutti i Weatherman decisero di smettere la lotta rivoluzionaria. Altri, e questa forse è l'esperienza più interessante a mio avviso e soprattutto una delle più sconosciute, altri decisero di continuare questa lotta e si unirono ad alcune formazioni clandestine, combattenti nere, e si unirono ai combattenti del Black Liberation Army. E la riflessione fu molto interessante, perché i combattenti neri potevano portare l'esperienza, la tecnica nell'utilizzo di armi e l'esperienza strategica nel condurre azioni armate, mentre i bianchi potevano portare in questa organizzazione una serie di elementi che mancavano a queste organizzazioni nere, ovvero soldi, la pelle bianca, che normalmente non porta un fermo, e una serie di case sicure che avrebbero permesso a questi militanti di rifugiarsi. Questa organizzazione, per i primi 5 anni di esistenza, sembrò avere ragione, dare ragione a queste valutazioni, e nel 79, ricordiamo, una delle operazioni migliori, ed è anche per questo che ho scritto questa postfazione, perché nel 79 Assata Shakur, un membro del Black Liberation Army, che era stato incarcerato qualche anno prima e che avrebbe dovuto scontare svariati ergastoli, venne liberata da un carcere di massima sicurezza, da un'unità di combattenti del Revolutionary Armed Task Force, ecco come si chiamava questa organizzazione mista, con un'operazione incredibile dove non ci fu nessuna perdita umana e dove invece si persero completamente le tracce di Assata Shakur, che ricomparve 5 anni dopo, nel 1984, come rifugiata politica a Cuba, dove tuttora risiede. ed è di non meno di un mese fa la richiesta per oltre $1 milione di rimpatrio nelle carceri statunitensi, perché rimane una delle 10 più ricercate negli Stati Uniti dall'FBI. Una delle componenti, uno dei membri di questa unità clandestina era Silvia Baraldini. Ecco perché abbiamo avuto un sussulto vedendo questo film, perché l'esperienza rivoluzionaria non era finita con i Weatherman, anzi, forse l'esperienza più interessante di un gruppo misto che iniziò ad operare in maniera efficace sul territorio statunitense fu proprio il Revolutionary Armed Task Force. Di questo non ci sono tracce, non ci sono libri di cui ne parlano, per chiari motivi, perché nel momento stesso in cui le diverse formazioni che arrivano negli Stati Uniti il peso della razza è fondamentale, nonostante la classe sia sempre l'elemento su cui analizzare, su cui considerare il sistema capitalista statunitense, non bisogna dimenticare l'elemento di razza. E in questo caso il RAFT rappresentava la sintesi di esperienze diverse e di un portato di quelle esperienze. E fino al 1981 le operazioni dei Weatherman sembrarono convalidare questa analisi. Nel 1981 un furgoncino portavalori fu fermato da una macchina di traverso di due giovani bianchi che sembravano aver avuto un incidente, e in realtà era un tentativo di espropriazione di un furgone portavalori. Questo tentativo di espropriazione andò male, tre guardie giurate vennero assassinate e quattro esponenti del RAFT vennero arrestati. In realtà quella che sembrava una delle unità più micidiali del movimento clandestino statunitense di fine anni 70 si rivelò tanto fragile quanto la teoria che la sosteneva. E infatti, e questo è uno degli elementi che io veramente vorrei sottolineare, uno degli errori più gravi, e lo potete leggere nelle interviste che ho fatto a alcuni esponenti dei Weatherman prima, del RAFT dopo, del Revolutionary Armed Task Force dopo, che ho incontrato alcuni in carcere negli Stati Uniti. Una ho avuto la fortuna di incontrarla per il party, che era per la sua liberazione, per cui l'ho intervistata invece che in carcere in un bar, e sono stato molto più contento, e sicuramente era molto più contenta anche lei. E credo che le parole di queste persone siano fondamentali, perché l'autocritica e il prendere coscienza di determinati errori non deve far pensare a queste esperienze come sconfitte, ma deve far pensare a queste esperienze come parti di un cammino che si svolge in fasi. Delle fasi possono essere più brillanti, delle fasi possono essere più scure, ma ciò che bisogna sempre tenere a mente sono le esperienze passate e farne valore delle esperienze passate. Ecco perché un problema grave che riguarda anche il movimento attuale qua in Italia, nostro, è la mancanza di critica e di autocritica. Assolutamente. Parlare di autocritica significa fare un insulto a qualcuno, e significa praticamente terminare ogni tipo di confronto e di eventualmente incontro e costruzione insieme. Invece l'autocritica è uno degli strumenti necessari per la continuazione di un movimento. E io credo che le parole di questi personaggi siano fondamentali e facciano capire quanto, proprio per anche per quegli stessi combattenti di allora, sia importante che noi impariamo dalle loro esperienze, altrimenti quelle stesse esperienze saranno state vane, saranno oggetto di analisi, di studi, di libri pubblicati, ma non porteranno niente al movimento. Questi erano innanzitutto erano militanti e persone che dopo 20-25 anni di carcere ancora nei colloqui portano avanti determinate idee, consci degli errori fatti, e vorrebbero che il nuovo movimento non li facesse. E l'unico elemento che realmente voglio sottolineare è che dopo varie conversazioni con esponenti del Black Liberation Army ed esponenti del Revolutionary Armed Task Force, quello che è venuto fuori è che l'errore principale fu quello di considerare la possibilità di avere un movimento pubblico che facesse attività e militanza sul territorio, un movimento clandestino che invece portasse azioni armate composto dagli stessi membri. l'idea di essere attivisti pubblici durante il giorno e guerriglieri durante la notte è molto difficile da portare avanti. E nel momento in cui uno dei vari guerriglieri viene preso, tutti gli altri cadono come pedine di un domino. E l'esperienza di questi compagni è stata molto dura. E per quanto vi riguarda, io volevo finire solo con una citazione che sentirete fatta da Martin Luther King nel video, e vorrei sottolineare che Martin Luther King viene visto come uno dei rappresentanti del movimento per i diritti civili, del movimento non violento. In realtà, nel momento stesso in cui iniziò a prendere posizioni diverse, Martin Luther King non ebbe più la possibilità, nonostante era un religioso, non ebbe più la possibilità di esprimersi, perché venne assassinato. Martin Luther King era già oggetto di spionaggio e vittima di questi programmi di controspionaggio dell'FBI anche nel momento in cui era il leader del movimento per i diritti civili, di un movimento borghese non violento. Nel momento in cui sembrava catalizzare anche l'attenzione di un movimento proletario violento, come quello che caratterizzava i vari riots, i vari uprising che c'erano nelle metropoli statunitense, venne freddato e venne giustiziato. Questo è il destino della maggior parte dei leader del movimento nero. Mentre per quanto riguarda tutto il movimento bianco, la fortuna di avere appunto una pelle bianca è la sfortuna di sentire a distanza di 30 anni numerosi manager statunitensi raccontare di com'era wild, di com'era selvaggio quel periodo in cui facevano gli alternativi. Ora è tristissimo dire questo, perché è una realtà che avrei voluto evitarvi, ma È veramente importante, a mio avviso, capire come l'elemento di razza negli Stati Uniti sia fondamentale, è assolutamente fondamentale. Tutti quelli che hanno fatto i rivoluzionari negli Stati Uniti, anche portando la guerra in casa, come i Weatherman, in un modo o nell'altro sono stati reintegrati nella società. Mark Rudd e Bernardine Dorn, due dei leader che vedete che saranno i primi a consegnarsi alla polizia di propria spontanea volontà, ora sono docenti universitari. Questo non lo dico con polemica, anzi, per l'amor del cielo, Conchetta si sta preparando a pubblicare un nuovo libro che è la traduzione della biografia di Mark Rudd, che vedete qua, che era un leader degli SDS, leader dei Weatherman e brillante professore universitario. Lo vedremo l'anno prossimo, credo, in Conchetta a parlare direttamente. Per cui queste saranno riflessioni che io sto dando a voi, ma che porterò alla sua attenzione allo stesso modo, come l'anno scorso abbiamo portato all'attenzione del regista le gravi mancanze di analisi politica che un regista, benché sia esperto in tecniche cinematografiche, quando si addentra nell'analisi di determinati fenomeni e di determinate dinamiche che sono fondamentalmente politiche, dovrebbe avere un po' più di coscienza in questo senso. Ed ecco perché ritorno alla citazione che vi dicevo, quella del presidente di Martin Luther King, che dice: come ha detto il presidente Kennedy, tutti quelli che rendono impossibili le rivoluzioni pacifiche rendono le rivoluzioni violente inevitabili. Ed ecco l'esperienza dei Weatherman. Questa è l'inevitabilità della rivoluzione violenta. Se poi lo riportate alla situazione attuale in Italia, vedrete come la necessità di risposte di tipo diverso sia quanto mai necessaria. Con questo concludo, perché forse ho detto anche troppo.